cuore, ringrazio in particolar modo questa sera l'assessore Margherita Coro, Luigi Sardi, Maurizio Mazzotta Spitale, che hanno accolto il nostro invito a venire in biblioteca, in questa piccola biblioteca, sede provvisoria, in attesa del polo bibliotecario che verrà realizzato tra qualche anno, 8, ultime notizie, ma comunque noi resistiamo. E come avete visto in questi anni, in queste anche ultime serate, il nostro tema è sempre o quasi incentrato comunque alla realtà nostra, locale, regionale, anche diciamo agli argomenti storici, per cui quando ci è stato suggerito di presentare il libro di Luigi Sardi abbiamo accolto molto volentieri questa proposta e questa sera abbiamo la possibilità di ascoltare anche dall'assessore Margherita Cogo, da Maurizio Mazzotta Spitale, dall'autore in persona, uno spaccato di quello che è stato il 68 a Trento e dalle cronache anche delle testate più importanti a livello locale. Verrà anche il nostro assessore Cristian Tomasini, che attualmente è in leggero ritardo, ma più che giustificato, stanno discutendo la legge Tomasini sulla casa, quindi potremo anche, la sua legge, e quindi arriverà con un leggero ritardo. O se no andiamo tutti da qui a così abbiamo la notizia fresca, sì. Non è che c'è di mezzo anche il ceto medio, quindi insomma è un po' una rivoluzione, penso che sarà molto interessante poi ascoltare quello che prevede questa legge. Cedo subito la parola all'assessore Coro, così sì, ringraziandola e vi auguro intanto una buona serata. Grazie mille. Si conviene, no? C'è una liturgia nelle... è un protocollo giusto, però insomma, che ha un suo significato. No, noi ringraziamo innanzitutto la biblioteca che ospita questa presentazione, dico noi perché parlo a nome mio e di Luigi, sapendo di interpretare in maniera corretta anche il suo pensiero. Abbiamo presentato questo libro l'anno scorso perché era il quarantennale del 68, però insomma contiene a nostro avviso informazioni insomma belle, interessanti, su cui vale la pena di ritornarci, per cui abbiamo chiesto ospitalità alla vostra biblioteca per la presentazione del libro di Luigi Sardi, che è stato, non spetta a me presentarlo questa sera perché c'è proprio una professionista che la presenta, io lo faccio in maniera molto amichevole, l'ho presentato, però io credo che qualcuno di voi che appartiene alla mia generazione può ricordare la firma di Luigi Sardi in calce a moltissimi articoli, perché ha lavorato per 40 anni nell'Alto Adige, nel giornale Alto Adige. Era a Trento, però evidentemente poi le notizie venivano riportate anche qui, perché lui era uno di quei giornalisti che seguiva la cronaca giudiziaria negli anni delle Mani Pulite trentine, anzi non soltanto, Mani Pulite in genere, e che avevano coinvolto anche la Tangentopoli trentina, insomma, no? È stato un giornalista, io lo ricordo, insomma, capace di essere un galantuomo come giornalista, direi di sì. Dico, qual è il termine preciso? No? Io dico, bisogna essere galantuomini nel fare il proprio mestiere, cioè nel dire le cose spiacevoli, ma non inventarsene delle altre. Già erano brutte a quell'epoca le notizie che riguardavano la nostra classe politica. Lui ha saputo essere un narratore delle vicende della cronaca politica e giudiziaria che erano combacianti in quell'epoca in maniera molto, molto equilibrata ed onesta. È un giornalista che manca, oggi se ne sente molto la mancanza, perché il professionismo in quel campo, no, è come in tanti altri, però devo dire, quando una società entra in crisi, e noi dobbiamo avere il coraggio di dire che la nostra società è in crisi, no, tutte un po' le professioni entrano in crisi, quella della classe politica a cui appartengo e via discorrendo, credo che non se ne salvino molte, tutto sommato, no? Ecco, mettendo sempre ed escludendo dei ragionamenti sempre i giovani e quelle che saranno le nostre future generazioni. Ecco. È stato un attento giornalista anche di un periodo importante come è stato quello del 68 in Trentino. lui si è occupato proprio di ciò che è avvenuto in Trentino in quegli anni, e vedere il 68 del Trentino, raccontare il 68 del Trentino, sostanzialmente vuol dire raccontare ciò che avveniva all'interno dell'ambiente universitario trentino, che era quello di sociologia. Il mondo universitario trentino e sociologia in Trentino era in agitazione da un paio d'anni, quando è scoppiato il 68, perché io credo, e qui correggimi, che la prima università occupata nel 66 era sociologia a Trento. Cioè, non è un vanto, no? È un dato di fatto, va bene? Io vi dirò che ero giovane anch'io, però insomma... Giovanissima. Sì, non tantissimo. Cioè, capace di intendere di volere capace e di capire che era necessario in quegli anni protestare, perché ricordo com'era la scuola, no? Ricordo com'era la società, che insomma usciva da un boom economico che non aveva elaborato un'altrettanta evoluzione culturale, civile e sociale, diciamo così, no? C'era una grande rigidità su tutto il resto. E quindi c'era la necessità che a una crescita economica, la crescita economica dovrebbe sempre essere accompagnata o preceduta da una crescita culturale, che poi dopo è anche sociale, un po' tutto insomma c'è coinvolto. Credo che noi siamo cresciuti in Italia sotto un profilo economico, questo boom economico, e non è stato accompagnato da una crescita anche culturale. Quindi bisognava rimettere in pari due binari. E il 68 ha avuto questo merito, insomma, di sollevare questioni importanti, questioni sullo stato sociale, sul trattamento dei lavoratori, ed è stato anche il primo movimento che si è caratterizzato per aver unito le rivendicazioni degli studenti legittime con quelle della classe operaia. In Francia e in Italia si è caratterizzato per la comunanza e per la capacità di queste due classi sociali. È dura parlare di studenti come classe sociale, di queste due categorie, però gli operai sono una classe sociale, no? Di queste due fette di società, ecco, forse è più giusto dire così, fette di società che si sono alleate e hanno portato avanti delle battaglie. Certo, il 68 ha avuto anche delle code tremende, no? Perché poi non nascondiamocelo, i movimenti armati in qualche modo hanno preso spunto anche da queste rivendicazioni, che poi hanno trovato e hanno teorizzato che la società andasse cambiata in altro modo, non soltanto con una protesta ma anche con la lotta armata. Però una cosa a me pare di poterla dire, che le Brigate Rosse non hanno avuto origine davvero a Trento e dalla protesta di sociologia. Ci sono buoni testimoni, non soltanto sardi, ma anche testimoni che hanno partecipato alla lotta studentesca e che poi hanno fatto anche una bella carriera politica, e Sardi poi ne parlerà e ne cita nel libro, parla di Marco Boato, che è il primo a dire, insomma, sono due cose diverse. Non a caso per fondare le Brigate Rosse si sono trasferiti altrove alcuni, e non è che l'hanno costituita a Trento. Ecco, ci dà uno spezzato della società trentina interessantissimo. Io ero studentessa qui a Bolzano e vi dico una cosa, siamo in pochi, possiamo anche dirla, si partecipava anche noi a qualche sciopero, se non trovavamo i catenacci sulle porte, no? Perché alle volte c'erano i lucchetti e noi si stava lì. Quando riuscivamo ad uscire o a non entrare, perché era più semplice non entrare che uscire dalle scuole, si cominciava a dire, oddio, arrivano quelli di Trento con i bolognini, no? Perché oggettivamente le teste calde ci sono in ogni movimento e in ogni parte, insomma, la protesta va bene, ma ci deve essere la civiltà nella protesta stessa. Ecco, la ricordo così, a Trento era tutto molto più vivace, certo, seguendo alle volte le cronache dei giornali e sentendo anche le chiacchiere della gente, sembrava che ci fosse oggettivamente una specie di guerra civile alle volte. Abbastanza vicino, eravamo abbastanza vicino alla guerra civile. Lui diceva, aspettiamo, arrivano quelli di Trento con i bolognini. Beh, a Trento si diceva, e adesso arrivano quelli di Bolzano con i manganelli. Perché c'era questo, cioè a Trento c'era questa, cioè a Bolzano lei mi racconta, Bolzano ovviamente non ha avuto quello che ha avuto Trento, che c'era questa preoccupazione o gioia o attesa, non lo so, di vedere arrivare quelli di Trento, ma a Trento più volte abbiamo avuto la presenza massiccia, è anche molto forte, di quelli che scendevano da Bolzano, ed erano molti, vestivano addirittura la camicia nera e comunque avevano il manganello. Abbiamo avuto delle, per esempio, durante la prima occupazione di sociologia, quella forse più morbida, più soft, quella che aveva anche creato una sorta di rapporto di amicizia fra gli studenti di sociologia e il resto della città, studenti di sociologia arrivati un po' da tutto il resto d'Italia, poi vi dirò anche cosa la pensava Indro Montanelli su questi studenti e come pensava degli altri. Ecco, una sera, proprio quando la tensione sembrava aumentare, si era sentito in fondo a Via Verdi questo canto di fascista, di giovinezza, e lì c'era stata proprio erano pochissimi quelli che erano scesi da Bolzano, avevano cantato, una decina, però è bastato quel canto per creare una situazione di grandissima tensione, non tanto fra gli studenti, che forse cercavano scioccamente lo scontro fisico, ma fra il questore, il colonnello dei carabinieri, il comandante dei carabinieri di Trento, fra il procuratore della Repubblica, il sindaco e l'onorevole Flaminio Piccoli, che allora dominava la città. Questa era un po' l'immagine. Voglio anche ricordare che oggi è il 2 dicembre, fra 10 giorni, il 2 dicembre del 1969, sono i 40 anni della bomba di Piazza Fontana. Bomba di Piazza Fontana che è stata una sorta di, come posso dire, freccia avvelenata che ha attraversato il corpo dell'Italia, riempendola di veleni strani, dando poi origine a quello che sarà la lotta armata, la lotta veramente armata da parte delle Brigate Rosse, da una parte, quelle che poi vennero chiamate Brigate Nere. Bomba di Piazza Fontana che a 40 anni di distanza, nonostante processi, inchieste, colpe, non colpe, eccetera, siamo lontani da avere una verità, e decisamente questa verità non l'avremo presumibilmente mai. Bomba di Piazza Fontana che comunque nasce, non evidentemente a Trento, non evidentemente nelle società, nelle università, ma in quello spirito di rivolta, e di voglia di fare una rivoluzione che era tipico proprio di quegli anni. Intervistando oggi i partecipanti, quelli che avevano preso parte a questi moti studenteschi, che poi divennero qualcosa molto di più di moti studenteschi, c'è questa precisa indicazione ormai consolidata, ormai storica. Ci si trova di fronte alla resistenza tradita, cioè nel 1945 era finita la guerra, sembrava che la resistenza l'aveva fatta sul campo, l'avevano fatta i comunisti, l'avevano vinta i democristiani con il favore delle urne. C'era questa immagine della resistenza tradita e della voglia in qualche modo di travolgere quella che era la società di allora. Siamo arrivati a momenti di altissimo dramma. Non vorrei che quella condizione che c'era allora di incertezza politica, di scontro politico formidabile, che più o meno per diverse ragioni in modo completamente diverso, però si sta verificando anche adesso, mi pare. Io non sono un politologo, io sono un cronista, però qua e là si hanno delle sensazioni, dei segnali, più che segnali, sono sensazioni però molto inquietanti di una ripresa di quelle che sono state le Brigate Rosse di allora. Ecco, un'altra piccola cosa, Indro Montanelli raccontava, ma era già negli anni di piombo, scriveva su sociologia, quello di Trento è un caso singolare. Con la mancanza di fiuto culturale che li distingue, i democristiani avevano chiesto e ottenuto la creazione di questo Ateneo, illudendosi che nella pace appartata ad una città estranea ai grandi sconvolgimenti sociali potessero essere formati i tecnocrati di una facoltà di manager. Nata nel 1962, l'Università di Trento divenne, come sappiamo, qualcosa di assai lontano dai propositi dei suoi sprovveduti promotori. I professori erano di livello, ma erano anche disponibili alle utopie di un giovanilismo sconsiderato e di un rivoluzionarismo salottiero. Indro Montanelli possiamo avere diverse espressioni, diverso pensiero sulla sua immagine politica, sulla storia politica, non possiamo negare che sia stato uno dei probabilmente il maggior giornalista italiano. Allora io intanto ringrazio Valeria per avermi invitato qui. Quando mi ha detto vieni, un libro sul 68, io ho detto, beh, 68, beh, io c'ero. Ero a Bolzano, però non ero a Trento, e quindi da Bolzano si è vissuto un 68 vagamente annacquato e così, un po' allo sbaraglio, un po' cercavamo di andare magari a Bologna a fare una bella manifestazione, scappando poi appena si vedeva un poliziotto, per dire però io lì c'ero, cioè io ho fatto il 68. Vorrei parlare un attimo del libro, perché io Luigi Sardi lo conosco da adesso, come voi credo, quasi tutti penso, e quindi so molto poco di lui, vedo che è una persona estremamente interessante, ma vorrei parlare del libro. Ufficialmente questo libro, che sembra un libro locale, è invece un universo. È veramente un libro che vola nel tempo, nello spazio, e dall'ambito locale si allarga a una visione nazionale e anche mondiale, devo dire, perché si parla, andiamo dalla nascita del movimento studentesco a Trento, legato alla facoltà di sociologia, come ha detto Margherita, ai primi contatti con gli operai della SLOI, però agli scontri con la destra fascista, andiamo dai figli di fiori dei Berkeley a Giorgio Almirante, dal Vietnam alla Resistenza, da Don Lorenzo Milani a Marcuse, dalla notte dei fuochi in Alto Adige all'attentato alla stazione ferroviaria di Trento, andiamo dai separatisti tirolesi ad Avanguardia Nazionale, che era il braccio armato dell'MSI. Sembrerebbe un libro confuso, a dire così, invece è un intreccio di situazioni e di coincidenze e di cause e di curiosità che risvegliano una lettura critica del 68 ed è solo una scoperta continua. Anche chi crede di aver fatto il 68 scopre sempre qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più, un collegamento. Personalmente trovo che la rotativa sia perdente rispetto al pugno in questo libro, nel senso che siamo così assuefatti a un ruolo della stampa discusso e inaffidabile che veramente non ci preoccupiamo della stampa trentina quanto di ciò che è successo e proprio di questi collegamenti. Dal libro si acuisce anche la consapevolezza un po' triste, insomma, del passaggio rapido del tempo. 40 anni dalla strage, 40 anni, ecco, cioè è solo 40 anni, no? Cioè, ce li sentiamo di colpo addosso questi 40 anni. E quasi io ho scritto un dolore sordo per l'impossibilità di realizzare i sogni, cioè 40 anni fa avevamo dei grandi sogni. Cosa è stato realizzato? Poi questo ognuno ci può pensare così. Le fotografie che ci sono in fondo ci sono bellissime fotografie, ci danno proprio questo senso del passaggio del tempo. Anche solo le facce, i vestiti, i capelli, cioè ci fa rendere conto che sono passati, cioè è passato mezzo secolo, diciamoci la verità. No? Ecco. È un viaggio anche nella memoria dei testimoni di questo tempo. Nelle ultime pagine c'è un indice dei nomi, voi non ci crederete, ma da Anna Maria Agnoletti con la A a Savino Zulberti con la Z sono citate 557 persone. Adesso se io vi dico, ricordate un po' di persone di quel tempo, uno arriva a 20, 30 persone, 557, è una riscoperta di persone che hanno fatto la storia e che forse abbiamo un po' dimenticato, no? E che è interessante proprio andare a vedere come collocarle. Il libro inizia con la manifestazione spontanea dei foresti, diciamo, per la morte di Che Guevara, e per me, anche se non è la fine del libro, per me termina con queste parole. 3 anni più tardi, nel settembre del 1991, sull'Europeo, un Vittorio Feltri con un volto da ragazzino spegneva con poche righe un altro sogno, quello del PC. Adesso tutti scoprono che il comunismo è un bidone e non meritava altra sorte se non quella che gli è toccata in Unione Sovietica. Finiva un'epoca, e non si sentì più cantare Addio Lugano Bella. Ecco, questo per me è la fine ideale di questo libro che tu hai scritto. Addio Lugano Bella. Ti lascio uno spazio, però ti faccio una domanda, perché ne ho ben un po' qua. Inizio da prima della prima pagina. C'è una dedica. Tu hai scritto dedica a Manuela e Gigi, due antichi compagni, due antichi amici compagni di vecchie idee. Di vecchie idee, sì. Manuela e Gigi sono, ecco, proprio. Io vorrei sapere quali sono le idee invecchiate, o non siamo forse noi che invecchiando le abbiamo cambiate queste idee? Allora, un attimo su Manuela e Gigi, che erano due compagni, lei è forse una delle prime femministe che giravano nel 68 in città, spaccando le vetrine, non proprio lei, o anche lei, là dove si vendeva biancheria intima. E diceva che la biancheria intima per le donne era un insulto alla femminilità. Oggi, se giriamo nelle vetrine della città, vediamo. Stessa roba, ecco, non solo, ma se andiamo in Siria, i negozi di biancheria intima femminile sono delle cose assolutamente incredibili rispetto alle nostre. Sembra dei porno show. Gigi è un vecchio compagno di lotta continua. Quali erano le loro idee, le loro speranze? Beh, era quella di fare questa rivoluzione che avrebbe dovuto cambiare il mondo, avrebbe dovuto cambiare il mondo della scuola, avrebbe dovuto cambiare il mondo del lavoro, avrebbe dovuto cambiare anche il mondo, il modo di fare la NAI, il modo di avere queste comunicazioni, fra un mondo di giovani che doveva essere guidato da giovani. Ovviamente il grido era c'è Guevara, avevano visto alla televisione, pochi conoscevano Che Guevara. Il grido era Mao Zedong e nessuno conosceva Mao Zedong. Il grido era Marx, Lenin, Togliatti, più avanti sarà Togliatti, Berlinguer, poco conoscendo sia di Marx, di Lenin e anche di Togliatti. Uno dei momenti fondamentali forse che esplodono da questa contestazione è attorno al 1963-64 La condizione della donna. Quella condizione della donna di allora. E allora qua mi piace leggere quando è diventato l'arcivescovo di Milano Giovan Battista Montini viene eletto Papa, le cose che lui fa, toglie da Trento, per esempio da Trento la storia dei perfidi ebrei del beato Simonino, ma dice no al divorzio, no alla pillola, no all'aborto, no all'abolizione del celibato obbligatorio per quanti diventano sacerdoti, e si impegna ad un clima favorevole all'educazione e alla castità. Proprio sulla questione della castità si era venuto a Trento, questo aveva scritto il giornale La Vita Trentina, giornale cattolico, un giornale scritto molto meglio di quanto scrivevamo noi giornali di allora, perché era fatto soprattutto da sacerdoti che sapevano di latino e sapevano di greco. Noi a malapena nelle redazioni dei giornali spesso si bisticciava con la grammatica e con l'ortografia. Comunque un vertice dell'Opus Dei, scrivendo delle donne, dice: alla domanda sulla presenza della donna nella vita sociale il molto reverendo rispondeva: per la donna il focolare e la famiglia occuperanno sempre un posto preminente, tuttavia questo non esclude la possibilità di svolgere altre attività professionali, aggiungendo che una società moderna, democratica, deve riconoscere alla donna il diritto di prendere parte attivamente alla vita politica, evitando ogni moglie a farsi bella, perché quando la moglie non si trascura il marito non cerca l'avventura. Aveva avuto anche parole di conforto anche per, virgolette, zitelle che si domandano cosa stiamo a fare al mondo. Ci stanno per amare Dio con tutto il cuore. Le nubili compunte rassegnate, forse non so se avevano applaudito. Questo era il mondo di allora, un mondo dominato dalla Chiesa, vecchio retaggio della Chiesa. Sì, però c'è forse un po' più di libertà adesso, un po' più, almeno libertà di pensiero. Dobbiamo pensare che Trento era stata la città devota alla Chiesa, nel passato fedele all'imperatore, comunque era devota ancora alla Chiesa e fedele alle urne e alla democrazia cristiana. Ed era forse proprio queste urne, questa fedeltà alla democrazia cristiana nelle urne che si voleva travolgere e cambiare. E si è cominciata a travolgere e cambiare proprio attraverso ad una manifestazione che era stata quella del 25 aprile, festa da una parte della liberazione e dall'altra parte non, evidentemente una festa contraria. Quando nella città di Trento, dove si riunivano i camerati, quelli che avevano fatto della Repubblica di Salò, che avevano fatto la loro scelta, per carità di Dio, e si riunivano nella chiesa di San Lorenzo, solo nell'interno della chiesa aprivano le loro bandiere, solo all'interno della chiesa si salutava, poi uscivano e si sparpagliavano, perché allora era assolutamente vietato al Movimento Sociale Italiano ostentare. Fuori da questa chiesa si riunisce, si radunano tre persone: la Lidia Battisti, che era la figlia di Cesare Battisti, il nipote Marco Battisti e uno studente di sociologia, e questi con un cartello Movimento Sociale Italiano cominciano a inalberando un cartello che li insulta in maniera violenta, non era mai accaduto questo a Trento. Ecco, su questo c'era, adesso non riesco a leggere, insomma, frasi contro il Movimento Sociale Italiano. E quella era stata forse una prima scintilla che aveva dato anche l'immagine FIPE. Ovviamente quelli della chiesa uscendo si erano scontrati, è stato il primo scontro fisico che c'era stato non solo a Trento ma in tutta Italia, perché Trento, piccolissimo segno sulla carta geografica, in quel periodo aveva guidato quella che era stata questa forma di rivolta violenta, anche perché poi andando avanti diventerà uno scontro, non dico quotidiano ma settimanale, con le forze dell'ordine, con le forze di polizia, con scontri veramente gravi, fino ad arrivare al culmine dell'episodio, ma quello posso parlare anche subito. 30 luglio del 1970, in risposta ad una assemblea che la CISNA, l'allora segretario, il sindacato del MIS, aveva tenuto alla IRETA, alla INIS di Gardolo, due esponenti del Movimento Sociale Italiano, Andrea Mitolo, che probabilmente qualcuno di voi sicuramente ricorda, l'avvocato Andrea Mitolo, e il sociologo, perché era laureato in sociologia, Gastone Del Piccolo, vengono presi da un gruppo di persone. Queste persone diventano centinaia, diventano quasi migliaia, e vengono portati per ore e ore, per oltre sei ore, da Spini di Gardolo a Trento, all'ospedale Santa Gara, con un cartello al collo: noi siamo fascisti, questa è la nostra politica per i lavoratori. Senza un intervento di quello che era il questore, la polizia, i carabinieri, scortati addirittura da due vigili urbani. Questo avviene, questo episodio, di una gravità inaudita, perché è un episodio di, come posso dire, di sequestro di persona totale da un punto di vista giuridico. È un episodio di una violenza estrema ed è l'episodio dal quale nasceranno poi, perché molti di questi studenti operai che partecipano a questo corteo senza rendersene esattamente conto di quello che stava accadendo, pochi giorni dopo, quando c'è la reazione dello Stato, legittima reazione dello Stato, quando il questore di Trento viene defenestrato dalla sera alla mattina, altra cosa mai accaduta in nessun'altra città d'Italia, quando a Trento arriverà a Giorgio Almirante facendo un brevissimo ma durissimo discorso sul tipo la nostra sicurezza sarà la vostra sicurezza, cioè si mettevano loro a fare da guida, da presidio a quella che era la città, molte di queste persone sono costrette per evitare l'arresto alla latitanza. Alcuni nella latitanza in Germania e in Francia prendono strada, qualche altro comincia a prendere quella strada che sarà poi la strada funesta e terribile delle Brigate Rosse. È vero che le Brigate Rosse non nascono a Trento, è verissimo, però è altrettanto vero che più di due personaggi trentini, sicuramente trentini, che hanno a che fare con il Trentino, Curcio e Margherita Cagol, passano le Brigate Rosse e saranno quelli che faranno i primi sequestri di persona. Vorrei spendere una parola in ricordo e anche in memoria, ma anche in memoria, come posso dire, rispettosa memoria, se mi è permesso, di Margherita Cagol. Margherita Cagol io l'avevo conosciuta molto bene, aveva accolto Sandro Canestrini, probabilmente voi l'avvocato Sandro Canestrini avete sentito parlare, nella sede di sociologia quando c'era stata la prima occupazione, l'aveva accolto suonando deliziosamente una canzone politica di allora, su Fratelli su Compagni, e Sandro Canestrini aveva tenuto il proprio intervento. Dopo lei si era persa fra la massa di sociologia. Praticamente scompare dalla città, la ritroviamo uccisa da una raffica di mitra alla Cascina Spiotta, alla fine del sequestro Gancia, quindi un sequestro di persona a scopo di estorsione. Quindi, quando una pattuglia di carabinieri assedia la Cascina per bloccare i terroristi delle Brigate Rosse che avevano come ostaggio Gancia, l'industriale Gancia, lei esce dalla Cascina, impugna una bomba a mano, quindi non uno scherzo, lancia la bomba a mano contro questi carabinieri, ne uccide due, ne ferisce un terzo, rimarrà mutilato e viene abbattuto da una raffica di mitra. E questa, se possiamo dire, potrebbe anche essere una sorta di parabola da quella che era l'infatuazione giovanile, questa voglia, questa certezza di scendere in piazza per cambiare la società, per arrivare ad una tragedia, perché di tragedia si tratta dall'una e dall'altra parte, di questa giovanissima donna che era vocata allo studio, cattolicissima, andava tutti i giorni a fare la comunione, si era sposata con Renato Curcio in abito bianco addirittura al Santuario di San Romedio, quindi un luogo romantico ma anche luogo di sicura simbologia di fede religiosa, e la troviamo lanciando la bomba a mano sia proprio una cosetta. Quindi vuol dire proprio questo passaggio in un arco di pochissimi anni, l'arco di quella che era la migliore gioventù, diventata peggiore gioventù, che è stata tradita da molti cattivi compagni. Sì, posso dire? Certo, sì, prego. Posso? Sei tu la responsabile? Prego, certamente. Prego. Dunque, io ho vissuto il 68 anche sebbene a 30 a Firenze. Ho dormito qualche notte a sociologia, occupato. Però la cosa più interessante, credo, racconto due episodi. Prima del 68, una storia con una ragazza, insomma, a quell'epoca, vabbè, e succede quello che succede, e lei poi dice: adesso non mi sposerò più. Dopo il 68, questo non è più successo. Cioè, attenzione, questa è l'immensa importanza del 68, cioè cambiare la mentalità di questa gentaglia, di questa colonia cattolica, di questa colonia vaticana italiana. Secondo episodio, nel 64 mi pare, se la memoria non mi inganna, sono 63 mesi, e avevamo fondato la Federazione Anarchica a Bolzano, piazza Erbe numero 3, e io ne ero il responsabile economico perché dovevo provvedere a pagare l'affitto. Senza mandato, senza nostra, entrano, sequestrano anche i libri di Bertrand Russell, tutto quanto possono via. Siamo arrivati in corte d'assise. Per reato di vilipendio? Non in tribunale o in pretura. Rischiavo 10 anni a testa per questa terribile frase: l'esercito mangia e uccide. Dopo il 68 non sarebbe più successo. È stata una liberazione del 68. Quindi questo è stato un vantaggio culturale, è stata una cosa meravigliosa, adesso si sta tornando indietro. E siamo a 40 anni di distanza, speriamo che a 50 anni di distanza ci sia un 2019 che riregoli i conti con questa banda di assassini, che non sono le brigate rosse. Comunque il 68, 68 è stato certamente... Ha cambiato il costume. Il costume, il modo di pensare. Ma sta ragazza dice adesso mi sposo più. Alla Madonna. Cioè, nel 68 non si poteva uscire dopo, con la ragazza fino alle 10, dopo le 10 dopo di sera. Sì. Dopo sì. Ecco. Prima no. È stata e questa è stata una conquista sociale che va al di là delle motivazioni politiche, perché è stata un movimento educativo nei confronti delle persone. Certo. Cioè questo volevo dire, chiedo scusa. No, per Bacco è sempre interessante, per pensiero anarchico che non tramonta mai. Un pensiero come un altro. Noi non vogliamo convertire nessuno. A differenza di molti altri. Di molti altri. Sì, se mi permettete, visto che io certo. Sono una che non si vergogna di dichiararsi femminista oggi in quest'epoca, che resiste. Io resisto, sì. È vero che 68 ha significato anche una liberazione, insomma, no? Per quanto riguarda concepire la donna e le vicende, anche se all'interno di sociologia le donne facevano, lavavano i piatti e pulivano. All'inizio lavavano i piatti. Col grembiule da cucina. Ecco, dopo si sono un po' ribellate. Però, tranne queste battute, queste cose che sono di folklore, comunque c'erano anche loro che occupavano. E ricordiamo che tra l'altro l'occupazione in sociologia aveva anche una sua motivazione forte, non soltanto nel voler cambiare la società, perché sociologia non era riconosciuta come materia e nemmeno il corso era riconosciuto, certo. Quindi pretendevano il riconoscimento dell'università, quindi non era una rivendicazione e voglio dire la lungimiranza di chi ha pensato di istituire l'università a Trento e oggi siamo qui a discutere su una nuova delega che il governo attribuirà alla provincia di Trento relativamente all'università. Noi avremo una delega vera e propria sull'università, se non ho capito male ciò che è avvenuto in questi giorni, così un po' di... Noi come PD, io sono il presidente del PD, contestiamo il metodo attraverso il quale è avvenuto, perché ci va bene oggi che abbiamo un presidente che ha saputo far bene, se però pensiamo che un presidente possa, in accordo anche con un ministro, modificarsi sì che si impliciti allo statuto, è pericoloso. Va bene oggi perché condivido ciò che contiene questo accordo, ma sul metodo devo assolutamente prendere le distanze perché è pericoloso. Beh, detto questo, insomma, a noi interessa molto e penso che sia stato un elemento di lungimiranza. Penso che Canestrini l'hanno ospitato perché era un consigliere regionale e era contrario all'istituzione all'università. All'inizio, certo. No, ecco, perché diceva è troppo piccola, non è, ed è vero in genere, no? Un ambiente troppo piccolo dove tu ci metti l'università rischia di essere piccolissima, ma la lungimiranza stava nel fatto di aver pensato una cosa totalmente nuova. Qual era la sociologia, per cui venivano tutti qui, quindi c'era lo scambio, no? C'era questa necessità di... Vabbè, poi adesso il diritto alla laurea dovrebbe essere, no? Quindi quasi un diritto di cittadinanza e quindi più ce ne sono, si dice, meglio è. Questo farebbe parte di un altro dibattito. Ecco, io volevo parlare della condizione della donna. Oggi come siamo messi relativamente a questo, a queste grandi conquiste? Siamo messi malissimo, perché non c'è la consapevolezza che al momento attuale c'è una strumentalizzazione della donna. E guardate, c'è una commissione internazionale istituita presso l'ONU che si chiama CEDAW, che ogni anno redige una relazione sullo stato dell'arte, sulle pari opportunità all'interno degli stati membri dell'ONU. Per quanto riguarda l'Italia, è terribile ciò che dice ogni volta. E però è bella questa relazione perché ti individua anche le responsabilità, oltre alla politica che ha sempre le sue responsabilità. Dice, ci sono i mezzi di informazione di massa, soprattutto la televisione, che si ostinano, e la pubblicità, a rappresentare il corpo di una donna che è un messaggio promozionale sistematico. Io ricordo quando, non mi ricordo che anno fosse, ma qualche anno fa, quando Miss Italia è stata vinta da una trentina, a un dato punto Dell'AIA ha detto siamo orgogliosi di te, dico Presidente, gli ho detto pubblicamente, tu non puoi essere orgoglioso perché una è bella, tu puoi essere contento, puoi felicitarti, però l'orgoglio tu lo devi avere verso tutti i cittadini che fanno il loro dovere, che siano belli o che siano brutti, perché essere belli è una fortuna che ti capita, tra l'altro è molto transitoria perché passa la giovinezza e passa la bellezza, di questo bisogna esserne non pensano molto consapevoli, per cui io mi sono beccata naturalmente quando tu dici qualcosa contro tutta la prima paginona dell'Adige e degli altri giornali. Bene, allora voi non sapete quante donne si sono peritate di scrivere che invece loro sono d'accordissimo col concorso di Miss Italia. E io penso al godimento degli uomini nel vedere che una donna attacca un'altra donna, no? E avanti così. Cioè, io però, siccome penso di avere un compito, no? Di essere entrata in politica, dopo che sono entrata in politica mi sono accorta che generalmente c'erano poche donne, se non nelle biblioteche. Trovavo poche donne nei tavoli di mediazione di quant'altro, e vabbè, dico, come compito come donna devo cercare di promuovere più donne all'interno della politica, quindi la legge che preveda questo, un'altra, cioè me lo sento proprio come una missione, me la do da me, no? Come esponente politico. Però vi garantisco che se tu trovi dell'ostracismo, lo trovi molto facilmente dalle donne, perché la consapevolezza, la coscienza che dobbiamo invece essere capaci di morderci la lingua ogni tanto quando si parla di altre donne, se ti viene a fare una critica, vai, porta pazienza, falla un'altra volta, ci sarà ben qualcun altro che si merita di essere oggetto delle tue attenzioni. Insomma, ecco, mi pare che avremo bisogno di una nuova rivoluzione culturale, non soltanto per quanto riguarda il ruolo della donna. Certo che quando parlo di rivoluzione culturale mi viene in mente quella è stata veramente la distruzione della cultura, naturalmente sapete bene che ha avuto questo aspetto drammatico, ecco. Volevo solo dire questo. Perfetto. Io ho una piccola perla che ho trovato su uno slogan che mi ha divertito molto, devo dire, uno slogan degli studenti, degli universitari trentini, che erano evidentemente lontani anni luce dagli ambientalisti, perché loro per strada gridavano cloro al clero, diossina alla DC, piombo tetraetile all'MSI. Cioè, adesso vi rendete conto quanti anni sono passati? Ma sebbene iniziato, va bene. Questo in una camera e fai. È fantastica, secondo me, questa cosa qua. Luigi, cosa è sparito da allora, oltre al rabarbaro zucca e al cinar? Ma è sparito... Sparite tantissime cose, ecco. È sparito un mondo completo, è sparito questo mondo che voleva cambiare il mondo, è sparita anche la voglia di questi studenti. Io quando ho fatto la presentazione di questo libro la prima volta abbiamo messo dei manifesti di sociologia, non è venuto uno studente di sociologia. Sociologia oggi è un parcheggio di bravissime persone, di grande interesse, ma non c'è quello spirito, quella voglia, quel fare, eccetera. Oggi diceva prima Margherita Covo, le donne, ma abbiamo fatto e non è stata pubblicata molti anni, 15 anni fa, un'inchiesta già 15 anni fa su cosa vogliono fare i ragazzi e le ragazze da grandi. Beh, a parte il solito avvio, la maggior parte è calciatore, ma la maggior parte è velina. È la velina la grande. La deputata può anche essere un ottimo lavoro, ma la velina, insomma, ecco. Quindi quello. E quindi manca una. Cos'è cambiato? Si gridavano, certo, cloro al clero, perché il clero teneva la massa, la gente, la teneva sottomessa. Diossina alla DC, perché la diossina di Seveso viveva ovviamente la Democrazia Cristiana. E piombo tetraetile all'MSI, perché il piombo tetraetile fra i due veleni, tra i tre veleni, era il più pernicioso. era il quello di sono il piombo tetraetile, era il veleno della Sloy, della fabbrica della Sloy. Sì, e quindi quando, non lo so, se, bisogna dare le misure, insomma, ecco, questo, questo era un po' la, il clero andava bene, insomma, ecco. Quindi, anche oggi. Fra le altre cose, per esempio, avevamo gli studenti. Ben trovato, salve. Come è andata la lezione? Ciao, Cristian. Appena iniziata. E buon Cristian. Salve. Che parlava il clero. Avevamo questi studenti che però si interessavano fortemente, andavano sui cancelli delle fabbriche e si interessavano di quella che era la vita degli operai, di come accadevano gli infortuni sul lavoro, discutevano e dibattevano, per esempio all'interno dell'OE purtroppo è andato perso tutto quel dossier della ricerca dell'operaio eccetera, di tutto quel dossier sulla fabbrica della Sloy. Erano stati intervistati tutti gli operai della Sloy, compreso quelli che erano stati mandati via da Gheddafi, di cui adesso sono andati molto amici, andati via da Gheddafi dalla sera alla mattina con l'obbligo di abbandonare la Libia in 24 ore portando solo una valigia, lasciandola tutto, e molti di questi operai sono stati tenuti in picco, sembravano cioè campi di concentramento in Italia, c'è poco da girare attorno alla parola. Uno di questi era Brescia, da questo campo di Brescia sono stati prelevati alcuni operai, che sono, oppure uomini, sono andati a lavorare alla Sloy, i quali non vedendo il pericolo, perché non lo vedevano, non usavano le maschere e morivano come mosche all'interno di questa fabbrica. Bene, gli studenti di sociologia avevano fatto, alcuni di loro si sono laureati proprio sulle tesi che riguardavano il pericolo del lavoro nell'interno della Sloy. Hanno fatto uno studio, un approfondimento enorme. Oggi non troviamo più uno studente, pochissimi studenti che leggono i giornali, pochissimi studenti che partecipano a dibattiti, pochissimi studenti giovani comunque ai cineforum, ecco, che sono rimasti così. Ovviamente allora si era probabilmente stato un eccesso, oggi abbiamo dall'altra parte una rinuncia totale. Che, guardate, se sulle, non ci sono più neanche le fabbriche, d'accordo, ma sui cancelli di qualche fabbrica si trova qualche studente che fa il volantinaggio, quello che si chiamava volantinaggio. E allora mi ricordo che il direttore del giornale Albino Cavazzani diceva che non si può scrivere volantinaggio, perché gliel'aveva detto un avvocato di Bolzano, perché non è una parola italiana, invece è entrata finalmente nel lessico. Insomma, anche quello è servito ad aumentare e ampliare il vocabolario. Io ho trovato un altro piccolo pezzetto sul quello che è il ruolo della stampa. Tu racconti di una studentessa, la prima occupazione di notte vanno nella redazione dove c'è questo redattore, appunto, e c'è la macchina da scrivere, la mia macchina da scrivere, la Underwood, ecco, sì. Che fa un gran rumore, insomma, un gran baccano, e la studentessa dice la macchina da scrivere con una mitragliatrice, e il redattore risponde: può essere peggio di una mitragliatrice. Allora vorrei chiederti se questa cosa è ancora attuale, secondo te. Sì, con una differenza però. 40 anni fa il giornalismo aveva sicuramente un metro di intervento e di lavoro diverso. C'era, credo, non perché ce lo mancherebbe, perché c'era più serietà. C'era, in ogni redazione aveva una scuola di giornalismo dove c'era il giornalista anziano che insegnava. Oggi qualsiasi persona precaria, stato precario, senza quindi con stipendi minimi, senza garanzie per il futuro, entra in un giornale. Io proprio negli ultimi giorni che lavoravo alla redazione di Trento dell'Alto Adige, un giovanotto è entrato, e la prima e unica cosa che mi ha chiesto è come si firma. Con le macchine, con il computer, adesso c'è un sistema particolare, si schiava e si viene fuori. Come si firma? Allora, io la prima sigla sul giornale, io sono entrato nel 59 all'Alto Adige, la prima sigla sul giornale l'ho avuta 3 anni dopo, col primo pseudo stipendio. Cioè, c'era tutto un lavoro. Oggi, il giornalismo di oggi, allora, un po' ancora sul giornalismo di allora, si andava nei tribunali, si frequentavano le questure, i carabinieri, non c'erano gli uffici stampa, perché adesso si va all'ufficio stampa e si prende la conferenza stampa che è un dettato stampa, è il dettato stampa. Voi vedete alla televisione quando i carabinieri, il colonnello dei carabinieri, il questore e tutti che scrivono in assoluto silenzio, senza domandare, uffici stampa poi quando vengono alle conferenze stampa del venerdì della provincia, salvo qualcuno che osa fare qualche domanda dell'A e altri credo non abbiano mai fatto domande, aspettano il comunicato stampa, la velina in forma maschile, e l'elaborano secondo lo sfizio del momento. Cambiato moltissimo sul settore della stampa, oggi per me non c'è più, c'è ovviamente una grandissima libertà di stampa, probabilmente il compagno mi dirà non è vero, probabilmente, ma c'è una grandissima libertà di stampa, ma c'è anche una libertà di insulto a mezzo stampa. Io perché devo dire che non è vero? Intendi dire che non c'è libertà di stampa? No, c'è libertà, no. Ognuno scrive tutte le puttanate che vuole, basta leggere il giornale Io Libero, libero. Più libertà rivela. Oggi però abbiamo secondo me una libertà di insulto a mezzo stampa, perché stiamo ormai arrivando a livelli probabilmente iperlibertà di stampa. Prima di lasciare la parola poi a Christian, che forse vuole dire qualcosa, anche lui ci dirà qualcosa, ho trovato un'altra due righe, tanto per me, per chiuderla lì con una battuta, perché sennò non sarei io, ma io dico. C'è scritto, alle 11.45, si parla di una manifestazione, alle 11.45 si sarebbero riuniti i reduci di Salò, che non potendo indossare quella nera, ostentavano camicie verdi. Ecco, io non vorrei che... Cioè, mi pare di capire che... Mi pare di capire, è così. Non ricordo quale fosse la manifestazione, c'erano tre messe la stessa mattina. C'era la famosa giornata delle tre messe. Esatto, la famosa... Perché da una parte c'erano i partigiani, dall'altra parte c'erano i giornalisti cattolici e dalla terza parte c'erano i camerati di allora, insomma. Con le camicie nere. Invece di avere la camicia nera che era vietata per legge, adesso non so se era vietata per legge, adesso è libera, e giustamente anche lui si veste come vuole, se ne frega. Ecco, indossavano le camicie verdi. Ovviamente la camicia verde di allora è interessante sì. questo colore. E anche queste, come posso dire, queste formazioni che nascono oggi, le ronde, eccetera, eccetera, insomma c'è un certo legame con il verde di allora. Un po' per dire che in questo libro si trovano anche queste piccole perle, bisogna leggerlo con attenzione, è una scrittura assolutamente fluida. È leggibilissimo e fluido, devo dire che io mi sono piacevolmente meravigliata e sorpresa, perché di solito un libro di un periodo storico uno dice oh mio Dio, no? Questo sarà un mattone, 300 pagine, invece scorre il telegiornalismo, ecco, scorre molto bene. Ti ha bocciata anche da te in prima media come la Biancofiore. E poi si sarà ripresa, dai. No, è uno stile molto fluido, va via bene. Assolutamente. Sì, si legge con piacere. Grazie. Io c'è sempre... Dopo facciamo parlare. C'è un altro personaggio, tu hai parlato di... Io ho parlato di Boato, tu hai ricordato Curcio, Maracagol. Però ce n'è un altro, no? Che poi ha fatto una strada, ha invocato una strada completamente diversa. Paolo Sorbi. Ecco, raccontacela la storia. E lui se ne va adesso con Paolo Sorbi. No, devo telefonare. Paolo Sorbi è quello che partecipa alla prima contestazione contro la messa del Movimento Sociale Italiano, che viene fermato da un agente, fermato in maniera molto, molto semplice, preso sotto braccio, portato in questura, identificato, allora si usava così, e dice: sono Paolo Sorbi, sono di Firenze, sono antifascista. Questa frase un po' come posso dire, quasi risorgimentale, quasi nobile. Invece Paolo Sorbi diventa il protagonista di quella che è una delle manifestazioni più laceranti per la città di Trento, per la città per Trento cattolica, il contro quaresimale. Alla quaresima, prima della quaresima, adesso non chiedetemi quando perché c'è la passo, quelle cose a me abbastanza ignote, ma mi dispiace non conoscerle, e in Duomo si riunivano i cittadini di Trento. Nelle prime file c'erano gli ufficiali dei reggimenti di stanza della città con le loro divise, e teneva il sermone un frate, tale padre Sbalchero mi pare, il quale parlava di quello che era l'inferno, i peccati, e probabilmente nessuno ha un ricordo preciso di quel discorso, probabilmente per qualcuno, nella memoria di qualcuno, che anche votare comunista poteva essere peccato o seguire il comunismo era un peccato. Certamente erano delle frasi sull'inferno, sul comunismo e sulla, probabilmente, quella che si andava ormai, questa liberalizzazione della donna, eccetera, eccetera. E durante questo sermone, il secondo giorno di questo sermone, Paolo Sorbi si alza in mezzo alla gente e dice: non è vero. Questa era, quindi, interrompere una funzione religiosa nella solennità del Duomo di Trento, in un momento così importante qual era quello precedente alla Quaresima, ha suscitato un'indignazione. La gente si è fermata, la gente si è voltata, il frate ha ripreso il proprio discorso, tutti gli studenti di sociologia, evidentemente la cosa era architettata, sono usciti e si sono fermati sulla soglia del Duomo. Il giorno dopo la stessa cosa, però la notizia si era diffusa, era stata pubblicata sui giornali, la gente è diventata folla. Terzo giorno la folla è diventata folla enorme, tutta piazza, e naturalmente c'è stata la prima mobilitazione delle forze dell'ordine. Questore di allora aveva messo in divisa, in borghese scusate, un sacco di agenti e carabinieri, i quali in coppia giravano fra gente per tastare l'opinione pubblica. Il momento avviene di nuovo, il sacerdote esprime una frase che non piace a Sorbi e agli altri, questi si alzano, escono, si fermano di nuovo per la terza o quarta, forse la quinta volta, sulla soglia del Duomo, e leggendo brani della Bibbia e brani del Vangelo, più o meno quello che accadeva con Don Milani. La folla è veramente enorme e molti cominciano a inveire contro gli studenti, perché noi, insomma, usando anche molto le bestemmie, dicevano: noi siamo cattolici, for voi che se comunisti, senza Dio, eccetera, eccetera. Queste sono frasi che vennero riportate dai giornali di allora. Succede una cosa banalissima, come spesso le cose banali, come spesso le cose enormi e grosse vengono trasformate nelle cose banali. Un trentino con uno scooter sta attraversando la piazza spingendo lo scooter a piedi, con lo scudo di plastica urta appena appena la gamba di uno che era capellone e con la barba, quindi evidentemente un sociologo. Il trentino, sommesso, dice: scusa, se t'ho toccato, e l'altro risponde con tre terrificanti bestemmie contro Dio, eccetera, enormi. La gente lo sente, non si può il bestemmiar, e viene, comincia la caccia al sociologo, cioè i sociologi si ritirano verso sociologia, arrivano i carabinieri che fanno quelli in divisa, saltano giù dai camion, con i loro moschetti, con i loro elmi, con i loro scudi, saltano giù i poliziotti, e gli studenti commettono quello che possiamo dire un gravissimo errore: sulle scale di sociologia si assiepano e si mettono a cantare La Montanara, che per i trentini, per chi va in montagna, è un canto sacro. Ma e accompagna questo canto facendo il segno delle corna. Segno delle corna, La Montanara, eccetera, scatena l'ira di Dio. Il cordone, il robusto cordone dei carabinieri viene sfondato. Gli studenti si riescono a barricare nell'interno di sociologia, e lì comincia l'assedio, ed è la prima volta, forse l'unica, che le forze dell'ordine in Italia devono proteggere gli studenti che protestano dalla folla inviperita. Più o meno negli stessi giorni, l'abbiamo saputo pochissimo tempo fa, proprio nella presentazione di questo libro, Kessler viene chiamato presidente Kessler, viene, Bruno Kessler viene chiamato a Roma, mi pare, da Mintore Fanfani. Mintore Fanfani vuol chiudere sociologia, perché Flaminio Piccoli ha avvertito evidentemente di quello che stava accadendo, le tinte erano indubbiamente fosche e buie, il Fanfani vuol chiudere sociologia. Allora c'è la visione di Kessler che entra a Palazzo Chigi, allora luogo nobilissimo, e entravi con un certo rispetto, con certa attenzione, si sente dire da Fanfani: domani bisogna chiudere sociologia, e lui cerca qualche, con Tarcisio Andreolli, era con la mia, Tarcisio Andreolli, lui cerca in qualche modo, e alla fine deve dire: faremo qualcosa. Si ritira e sulla soglia viene richiamato indietro. Beh, dice: continuiamo, un'università è sempre importante. Questa è un'altra grandissima vittoria di quella che era la figura di Bruno Kessler. Ecco. Però lì nasce quella che sarà la rottura fra Bruno Kessler, sarà, diventerà ancora più acuta, ancora più ampia, la rottura fra Bruno Kessler e Flaminio Piccoli, fra la sinistra democristiana e i dorotei di antica memoria. Adesso diamo la parola al nostro assessore. Grazie, ma in realtà io volevo semplicemente salutare e ringraziare Luigi Sardi e ringraziare anche Margherita Cogo e naturalmente Maurizio Mazzotta e la biblioteca. Abbiamo voluto presentare questo testo, questo interessante testo, perché effettivamente è uno spaccato, possiamo dire, della nostra vita, della vita trentina, ma che ha inevitabilmente grossi legami con l'Alto Adige. E quindi l'abbiamo voluto fare in una biblioteca che fa appunto della ricerca storica e anche dei percorsi di storia contemporanea, uno dei suoi centri. Quello che a me ha colpito di questo libro, scritto appunto, come voi avete già detto, non come appunto un saggio storico, ma come una cronaca che ricorda gli avvenimenti di quegli anni, è in effetti la densità degli avvenimenti, la straordinaria densità degli avvenimenti, la loro rilevanza, anche se qui naturalmente sono riportati in termini di cronaca, ma per poi lo sviluppo della nostra autonomia, della nostra società negli anni successivi, come alcuni personaggi che si ritrovino poi abbiano altre strade, eccetera, e appunto la differenza fra questa generazione e la nostra generazione, in termini di impegno politico. Qui forse è stato detto... eravamo naturalmente in una forma anche di eccessi, in cui poi sono successe anche delle cose, atti terroristici, eccetera, però c'era sicuramente una grande passione politica dettata dall'idea comunque di cambiare il mondo, cioè delle generazioni che in qualche modo si mettevano in discussione, anche sbagliando, ma insomma. Adesso si fa veramente fatica e c'è un'apatia molto forte, con una sorta di muro di gomma che non si riesce molto spesso a scalfire. E naturalmente ogni periodo storico ha le sue specificità, però questo fatto, leggendo da contemporaneo, la persona che fa politica nel 2009, si percepisce questa grande distanza, no? Sì, veramente un universo parallelo. Eppure sono eventi, personaggi che hanno influito su ciò che noi siamo in maniera molto forte, su ciò che noi siamo oggi, e quindi questo, siano passati secoli, sono passati 40 anni, quindi non è passato tantissimo, no? Ma è veramente un altro universo. E quindi credo che questo testo sia utile, perché in un momento come il presente, in cui si tende appunto a rendere tutto presente e a dimenticare le radici di poi alcune problematiche, alcuni nodi che si possono poi creare, questo testo ce li riporta alla memoria, e per questo abbiamo voluto, e vi ringraziamo per la disponibilità, presentarlo anche a Bolzano e averlo a disposizione anche nella nostra biblioteca. Grazie. Perché appunto gli eventi poi successi a Trento hanno un riflesso diretto su Bolzano e sono peraltro anche riportati e documentati. Grazie. Se ci sono domande, e possono esserci risposte. Possono esserci risposte. Cioè che è un libro del genere, senz'altro una cosa positiva, soprattutto se venisse introdotto, ma la Gelmini certamente non sarà d'accordo, anche nelle scuole, perché fa parte della storia contemporanea, non solo il Risorgimento, quelle cazzate lì. Anche questo è storia contemporanea, perché ha cambiato la mentalità delle persone. Mi sono permesso di citare due episodi che ho vissuto io, e la mentalità è cambiata. La donna ha cominciato ad avere più coraggio. Dove siamo ancora? Nei posti di conto? E per esempio, adesso diciamo sì, gli errori, l'ottantino a potere operaio, che poi che mi ricordo che quelli di potere operaio gridavano con la Eve Moscia potere operaio, ma è cacchio, però qualcosa è successo ovunque, a parte il potere operaio di chi è sempre stato mantenuto. Cioè quelli forse erano dei fallaci interpreti, però gli operai, quelli hanno capito, e non con la Eve Moscia, perché poi forse anche il sindacato è riuscito a muoversi un po' meno peggio di prima. Salvo poi a ritornare in condizioni peggiori dei precedenti, come capita adesso, purtroppo. Qualche politico, esclusi i presenti come sempre, ha imparato qualche cosa. È stata una stagione storica che va ricordata, insomma, ecco. Una stagione storica che è... Un episodio, non un episodio, un'epoca storica. Epoca storica, certo. Una stagione più che proprio una stagione storica. Ma che è diventata un'epoca. Perché la mentalità, in ogni caso, per esempio, quell'episodio che citavo, ragazzuola che dice adesso mi sposo più perché è successo dopo il 68, una cosa del genere non si sentiva più, sì, almeno quello adesso non ci si sposa più se almeno non hai quello il seno rifatto e altre cose, per cui io non credo. No, vabbè, questo è un'altra bella, anche questo è vero, però prima allora cosa facciamo? L'infigurazione? No, volevo dire, e sicuramente ci sono stati dei grandi cambiamenti. Ossia, è quello che sto dicendo. A piene mani, ecco, con le generazioni arrivate dopo. Però, per quanto riguarda la donna, per esempio, che è un argomento che è stato toccato, non trovo che ci sia tanto da divertirsi in questo momento. Le chiese continuano a sopravvivere. Giancarlo, se posso dire una cosa, ecco. Tu quei due episodi che hai raccontato, li hai raccontati da uomo, uomo, esatto. Che non capisci che ritardo, non per colpa tua, non puoi capire. No, vero. Ascolta una cosa, cioè dove siamo noi donne? Adesso siamo più scolarizzate, ma dove siamo? Ma che ci vogliono anche mandare come mai televisione? Una donna non può diventare prete. Lascia perdere. No, però potremmo diventare altro. Attenzione. E allora chi è che predica e continua a predicare l'imparità sessuale? Ascolta, posso finire? Come mai Dio è maschio? Come maschilismo è tanta? Viene prima della Grecia. No, attenzione. E volevo un'ultima cosa. Come mai la adesso una coppia di persone che vuole un figlio e deve avere una fecondazione assistita deve recarsi all'estero da questa colonia vaticana quando la terza persona della loro trinità ha prodotto la seconda persona della loro trinità extra coitum con la Madonna. E allora io voglio faremo una serata sulla no, grazie.